Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. La prima corsa si è svolta nel 2009, una gara secca per assegnare il titolo. Dal 2010 invece è iniziato un vero e proprio campionato. Parliamo del campionato mondiale di MotoGP elettriche. Io ve lo confesso, del campionato non ne sapevo niente, ma non sono rimasto del tutto sorpreso quando ho scoperto che queste moto, seppure siamo solo agli inizi, hanno prestazioni che già rivaleggiano con quelle delle motorizzazioni tradizionali. E questo è il bello dei motori elettrici, che sono affidabili, sono capaci soprattutto di mettere a disposizione tutta la potenza da subito. In pratica a zero giri si ha la coppia massima, quindi dei veicoli molto scattanti. Ecco, tantomeno sapevo che il secondo posto sia nel campionato europeo che in quello mondiale nel 2010 è andato alla ICRP, una moto italiana sviluppata appunto dalla CRP, che è un gruppo imprenditoriale che ha sede a Modena, quindi nella Motor Valley, e che opera da una quarantina d'anni nel mondo del motorsport internazionale, dalla Formula 1 alla MotoGP, eccetera. Allora facciamo la conoscenza con due appassionati di motori, che sono Livia Cevolini, che è capo di questo progetto ICRP, e con Giampiero Testoni, che invece è capo del gruppo che lavora sulla trazione elettrica. Buonasera Testoni, buonasera Cevolini. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora Cevolini, cominciamo da lei. Quanti sono i team che partecipano a questo campionato? Ma a Laguna Seca, che è stata la gara comunque più rappresentativa di tutto il campionato, c'erano rappresentati almeno 5-6 paesi nel mondo ed eravamo in 13-14 in griglia. D'accordo. Ecco, stavamo dicendo del confronto invece con le moto tradizionali, quelle endotermiche. Dicevamo che quelle elettriche se la cavano bene. Ci fa qualche esempio, ci fa un po' capire meglio? Ma sempre Laguna Seca, che fino ad oggi è stata la gara un pochino anche più famosa e più seguita e con maggior numero di partecipanti, chi ha vinto, un team americano, ha girato di media a 10 secondi dalla MotoGP. Correvamo nello stesso weekend, poche ore prima della gara della MotoGP, quindi è stato possibile fare una comparativa diretta. Giravano sui tempi della Superbike americana e solo a 10 secondi dalla MotoGP. E se consideriamo che probabilmente il pilota che, come dire, si giocava il mondiale GP sull'endotermica era un po' più bravo forse di quello che correva sulle elettriche, visto che i soldi che girano immagino siano un po' di più, esatto. Sostituendo i piloti, chissà che non sarebbe andata al contrario. Insomma, quali sono però i numeri della moto? Quanto è veloce, potenza, autonomia? Ma allora, le moto elettriche in questo momento sono molto diverse l'una dall'altra, ci sono tante sperimentazioni. La nostra ha in questo momento un range tarato sulle gare che sono di 40 km, quindi 40 km in condizione gara di range massimo, una velocità al banco di circa 220 km all'ora e una potenza totale di circa 50 kW. Ho capito, quindi insomma 50 kg, insomma una bella moto potente. Ora voi, e qui mi rivolgo a Testoni, però avete proprio in progetto di portare questa moto che nasce per il circuito sulle strade invece. Diciamo subito che non sarà per tutte le tasche, come d'altra parte non lo sono le auto elettriche. Ciò detto, le chiedo Testoni, qual è la difficoltà principale? Sicuramente, oltre a quello che è già accennato, quindi il costo, lo squaglio più duro è l'autonomia del mezzo, in quanto avendo le batterie un costo anche per oltre il 60% del costo totale della moto, o si fa un'autonomia limitata oppure si dà una grande autonomia ma con ripercussione sul costo e sul peso della moto stessa. Certo, insomma il problema è che le batterie ancora non sono in grado di fornire prestazioni simili a quelle della benzina. Il problema di fondo è sempre questo qua. In compenso, rispetto alla questione del costo, mi pare di aver capito che voi avete già lavorato anche per il modello da gara su una moto che comunque costava relativamente poco. Sì, senz'altro, per quello che riguarda il nostro moto racing siamo stati su un costo unitario tra i 40 e i 50 mila euro moto completa, a dispetto di, parliamo anche di milioni di dollari dei nostri concorrenti americani. D'accordo, quindi una differenza di 20 o 30 volte praticamente. Senta Testoni, una cosa che mi ha colpito di questa vicenda è che è emerso che anche se parliamo di motori elettrici, che io invece consideravo una tecnologia totalmente matura, ci sono delle direzioni di sviluppo ben precise, cioè ci si può lavorare sopra per fare innovazione tecnologica. Senz'altro, è quello che stiamo facendo noi al momento, ci stiamo apprestando a studiare un'innovazione, diciamo un motore nuovo, con prestazioni diciamo di alto livello, saremo intorno ai 100 kW di potenza, ma con una netta riduzione sul peso, sui volumi, quindi a vantaggio dello spazio per le batterie o per un peso minore della moto stessa. Sì, consideriamo sempre che l'Italia è uno dei paesi con la maggiore concentrazione di aziende che si occupano di mobilità elettrica, compresa l'intera filiera che si occupa di trazione elettrica o addirittura anche infrastruttura. Insomma, quindi è un'occasione da cogliere per il paese, lei dice, lavorare in questa direzione. Assolutamente sì, perché sarebbe un ottimo sbocco economico per un grande segmento di mercato. Senta Cevolini, quando è che pensate di esordire sul mercato con questa moto da strada elettrica? Ma l'obiettivo iniziale era essere già sul mercato dal 2012, poi ci siamo resi conto che non è pronto il mercato, non sono pronte le infrastrutture e anche comunque i costi delle batterie sono ancora troppo alti, siamo troppo poco competitivi, quindi abbiamo rallentato un pochino, lanceremo quest'anno la Concept e poi verso 2013 invece vorremmo provare a iniziare a consegnare i primi modelli. D'accordo, e che autonomia prevedete di conferire a queste moto? Lo sviluppo delle batterie è giornaliero praticamente, sì, quasi come quello dei computer, quindi dipende da quello che succederà in un anno, però l'obiettivo è quello di avere almeno 150, 120, 150 km di autonomia. Grazie Gian Piero Testoni, grazie Livia Cevolini. Grazie. Grazie a voi, arrivederci. È tutto, a domani.